ristorante, mi vedi? Ce l'ho qua davanti. È un po' complicato qua, eh? Lo facciamo spostare un po' più avanti? Vai dietro, vai, vai. Sta scappando, vieni. Avviciniti. Dai che sta scappando. Dai, raggiungici qua. Stiamo andando in tangenziale direzione Flaminio. Comunque questo si schianta, eh. Non ce l'ha, non ce l'ha, lo perdiamo. Vienici dietro. Si è schiantato. Scendi, dai, l'abbiamo preso. Scendi che scappa. Preso, preso, preso. Scusate il ritardo. C'era traffico. Certo, almeno voi della prima fila potevate almeno vestirvi un po' meglio. Noi in divisa ci teniamo la forma, sai? Aborrisco solo di fronte al perizoma. Yamamai, intimissimi, Chanel. Puh, mi viene il rigurgito di fronte a questi abominevoli marchingegni. Solo ad immaginare un laccio delle scarpe nelle chiappe e due ferri sotto il seno mi viene il prurito. Robaccia da escort. Quindi, per i malvestiti, pazienza. Ma se c'è qualcuno con il perizoma, è pregato di uscire o di toglierselo. Sei molto abile con la spada, ma non ho paura di te. Fatti sotto se hai coraggio. Sembra che io abbia vinto. Mi chiamo Francesca Di Giorgio. Sono una bambina. Guardo solo Lady Oscar e leggo solo Pinocchio. Tutto il resto mi annoia. Sto sempre in mezzo ai maschi e con loro non mi annoio mai. Ci si arrampica dappertutto, si gioca d'azione, si sconfiggono i mostri e ci si può sporcare senza che le madri rompano le scatole come alle femmine. Dicono che sono un maschiaccio anch'io, ma mia madre a me le scatole me le rompe perché dice che sono una femmina e che devo fare le cose da femmina. Le mie amiche giocano tutte con le Barbie. Io non voglio giocare con le Barbie. È noioso vestirle, soprattutto le scarpe. Le perdo tutte perché le fanno più piccole dei piedi. Lo fanno apposta per tenere impegnate le bambine ore ed ore a cercare di infilarle. Così le madri pensano che siano un buon metodo per tenerle buone e la Mattel fa il business. Francesca, non guarderai mai più Lady Oscar. Battaglione attenti e presentate le armi. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Lo giurate voi? Lo giuro! Adesso ho una pistola. Con questo arnese posso decidere sulla vita e sulla morte. Proprio come Dio. Basta un piccolo movimento del dito e... pum pum pum! Il mio dito è Dio. E nessuno lo conosce meglio di me a Dio, Perché mio padre, ufficiale dell'esercito, cattolico e di destra, ci teneva che quel giorno io, mia madre e mio fratello fossimo impeccabili per la terza fila della panca di legno che ogni domenica consumava sulle nostre ginocchia. Per il resto le gonne le ho sempre odiate. Le gonne sono scomode. Ogni volta che ti siedi devi chiudere le gambe. Se devi raccogliere qualcosa da terra devi abbassarti così. Roba da pazzi. Ma lui, papà, ufficiale dell'esercito, cattolico e di destra, la domenica per la messa non sentiva ragioni. Le donne in gonnella. Tra 10 secondi, tutti qui davanti, pronti per l'addestramento. La carica. La carica è un momento per sublimare la vostra divisa. Ci sono delle regole inderogabili e da applicare ad ogni situazione. Com'è il tuo nome e cognome? Dimenticalo! Adesso sei una macchina, un robot pronto ad eseguire ordini. Pensa ad una macchina telecomandata. Io spingo il pulsante e quella va nella direzione che decido io. Tu non devi pensare mai, ma trasformare gli ordini in azione. Azione e volontà sono le sole chiavi che vi è concesso tenere in tasca. Mentre siete tutti schierati e al passo, dovete essere concentrati ed accumulare la forza e l'energia che vi serviranno al momento dell'azione. Ci sono molti colleghi strateghi della carica, filosofi della carica, e io sono uno di quelli. E con gli anni e l'esperienza ho affinato la mia strategia, che sul campo si è rivelata sempre vincente. È scontato che essa può variare a seconda della situazione. Se l'azione non è di piazza, ma ad esempio un'irruzione a sorpresa, mentre i nemici dello Stato dormono in una scuola o nelle tende, la dinamica sarà diversa. Ma noi ora esamineremo la classica situazione di strada. Per prima cosa, procedere al lancio dei fumogeni, per destabilizzare il nemico. Quando il fumo pian piano si dirada, vedrete comparire delle sagome. Proprio quello è il momento in cui, manganello alla mano, colpire i primi che vi compaiono davanti. Non abbiate paura di usare la forza. Il manganello è una piuma. E più ne date, e più il ribelle si rieduca. E se riuscite a bloccarne uno, mentre voi siete di più, meglio. Il pestaggio sul singolo deve essere rapido e determinato. E per quanto possibile discreto. Punirne uno per educarne 100. Tornati a casa doloranti, la prossima volta, prima di attentare alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico, quello Stato che voi avete giurato di difendere, quell'ordine pubblico che spetta a voi mantenere, ci penseranno 1000 volte. E allora, solo allora, potremo dire di aver assolto al nostro compito. Apprendo con orgoglio il trasferimento al centro identificazione ed espulsione di Ponte Galeria. Onorata di essere chiamata a difendere la patria dall'invasione che ormai da anni a questa parte sta colpendo il nostro paese, ho solo una piccola paura. Gli immigrati clandestini potrebbero contagiarmi qualche malattia. Papà, guarda come sono bella con la divisa. Sembro proprio Lady Oscar. È molto che state fissando Oscar. Già, è un giovane molto affascinante. Voi non lo sapete, Altezza. Il nostro affascinante capitano Oscar è una donna. Che cosa dite? Una donna. Il padre lo ha educato come un ragazzo e ci è riuscito molto bene. Infatti vi ha salvato la vita. Che cosa dite? Che delusione! Mi chiamo Francesca Di Giorgio. Guardo solo Lady Oscar e leggo solo Pinocchio. Per il nuovo incarico sveglia alle 4, lucida in 7 secondi, doccia fredda per temperare il corpo e lo spirito, colazione una fetta di pane e Nutella, energia per fare, per pensare. Ne mangio solo mezza, a me serve solo per fare. Comincio dai pantaloni, li infilo velocemente in piedi senza bisogno di sedermi. Poi è la volta della camicia, mentre la abbottono è come se vestissi la mia anima. Sembra di rimettermi la pelle addosso. Stringo la cinghia dei pantaloni, stando ben attenta a farci entrare la camicia. Quella morsa sulla vita mi ricorda ogni mattina il giuramento che ho fatto e il dovere, l'onore e la fedeltà verso lo Stato italiano che ogni giorno sono chiamata a servire. Alle 6, sul posto, prima di essere operativi, ci attende un nuovo discorso. Da oggi assumo la direzione dell'ufficio... Immigrazione. Tra i reati comuni e i reati... A carico di immigrati. Sempre più si assottigliano le distinzioni, che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi... Un immigrato! Sotto ogni... Immigrato! Può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia... Immigrati! I criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario E l'immigrazione? Organizzata, istituzionalizzata, legalizzata. Nessuna. 6.000 prostitute schedate, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno. L'uso della libertà, minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà. Bravo. Bravo, bravo dottore, complimenti. Bravo dottore, bravo. Bravo. Non è molto diverso da un carcere. Anzi, sembra un carcere di massima sicurezza. L'ingresso qua dentro è vietato a chiunque. Giornalisti, associazioni per i diritti umani, persino i parlamentari devono avere un permesso speciale per fare un tour qui dentro. Noi dobbiamo garantire la sicurezza. Le donne sono circa 120, quasi tutte negre tra i 30 e i 40. Qualcuna sembra più piccola, qualcuna più grande. Più di qualcuna c'ha proprio l'aria di una di quelle di via Cristoforo Colombo, dove c'è la tratta delle battone nigeriane. Scusate, mi rendo conto con questo termine di oltraggiare il lessico italiano. Da noi ormai si chiamano escort e fanno la pipì nei bagni adornati da oro zecchino. Queste negre mica vengono invitate a cena dal presidente. Piuttosto sporcano la macchina di qualche bravo padre di famiglia italiano, degli impiegati, dei bulli, dei nonni, dei preti. Loro non saranno mai escort, ma rimarranno meretrici, puttane, sgualdrine, zoccole, bagasce, mignotte, troie. Lasciate l'Italia agli italiani. La escort è made in Italy. Mi viene una rabbia addosso a guardare quegli occhi strafottenti fissare il mio passaggio. Sono venute qui ad invadere il nostro paese che già ha tanti problemi, a riempire i nostri autobus con i loro bustoni di plastica che puzzano di cipolle marce. Vogliono casa, vogliono lavoro, cibo, cure mediche, invasori. Vi rimanderemo tutti a casa. Piantonare, controllare, sedare eventuali disordini, coordinarmi con i colleghi. Quante divise? Guarda quanti colori, stellette, gagliardetti, guardia di finanza, esercito, polizia, carabinieri, ci siamo tutti. Solo che ognuno obbedisce al suo comando e qui dentro non ci si capisce un cazzo. Niente discorsi con i prigionieri, solo ordini. Inizio la prima passeggiata. Oh, che puzza di piscio mischiato a disinfettante. Facciamo un quiz. È meglio il piscio rarefatto con retrogusto di diarrea o quella puzza acida di candeggina che ti entra nel naso, ti buca la gola trattenendoti il respiro? Davvero una bella idea è bagna la turca in questo posto. 4 letti per ogni cella. Le donne sono calme, sembrano in perenne attesa, stravaccate qua e là. Non le guardo negli occhi, non è necessario. Parlano tra di loro, mi scrutano. Cercano di capire cosa nasconde il mio sguardo. Provo un picco di piacere nel mantenere l'imperturbabilità che mi distingue quando sono di servizio. Mi sento potente. Colazione. Niente caffè, troppo eccitante. Mantè acquoso e 2 fette biscottate ciascuno. La negra, aggiottate una realtà bollente! Urla, sfilo il manganello, mi precipito su di lei, braccia immobilizzate, eppure la testa. Fa resistenza. Mi ha morso il braccio, non doveva farlo. Prendo a manganellarla su una spalla. 1, 2, 3, 4 botte. Lei si richiude su se stessa come una lumachina. Si aggiunge una collega che gliene suona ancora. Un'altra negra si avvicina e cerca di aiutarla, ma la collega bastona anche lei. La situazione si calma. La negra ha una crisi di nervi. Viene portata in infermeria. Viene sedata ancora oltre le 3 razioni giornaliere. Diazepam e lorazepam al mattino e alla sera lormetazepam. Tutti qui hanno a disposizione questi sedativi. Se vogliono possono richiederli, visto che la razione obbligatoria la mettono nel cibo. La pazza adesso è tranquilla. Dorme. Il collega dice che sono selvagge, abituate a comportarsi così. Secondo me, un po' ha ragione. Mezzogiorno, di nuovo piantono la mensa. Il pranzo. Sembrano calme adesso, servita la lezioncina. Un'africana alza la testa. Con questo fammi tra di nuovo 10 minuti. Si lamenta che le porzioni sono piccole. Sì, in effetti lo sono. Ma in Africa 300 milioni di persone soffrono la fame. Mangiano solo miglio. Ogni 8 secondi muore un bambino. Si lamentano che non hanno neanche l'acqua, invece di ringraziare Dio. Le capisco proprio. Sì? Sì. Cerchi di stare calma, altrimenti non capisco. È in casa, signora? Nel bagno? Chi è che ha preso il bastone? Suo marito. Ho capito. Chiude a chiave la porta, si chiude. Mi dia l'indirizzo, signore. Viale dei Consoli 31, perfetto. Scala 1. Mando subito una volante. Di corsa una volante, Viale dei Consoli 31. In fretta che il marito la sta bastonando. Questo è il mio paese e io lo difenderò. È mezzanotte, sono di pattuglia. Due ragazzotti stanno massacrando un ignano alla fermata. Scendo di corsa. Fermi! Lo mollano. Perde sangue dalla faccia. A sbira de merda. Cercano di darmi un calcio. Uno di loro ha in mano una lama di almeno 15 centimetri. Il collega ha chiamato rinforzi. La volante arriva e li sbattiamo in macchina. Immediato anche l'arrivo dell'ambulanza che si porta via l'indiano. Forse gli abbiamo salvato la vita. Via, in centrale. E domani sono di turno alle 6. 1.200 al mese. Appena maggiorenni, di buona famiglia. Dopo mezz'ora hanno già ricevuto la telefonata degli avvocati. La mattina sono già a casa. E intanto qui, al centro identificazione ed espulsione di Ponte Galeria, sono passati 2 mesi. Passeggio per i corridoi. Perdo la cognizione del tempo. Qui dentro non lo senti scorrere. Sembra sia sempre la stessa ora. La luce non entra e le lampade al neon creano una cappa sbiadita. Le detenute, le ospiti, non so come chiamarle, sono risucchiate in un buco nero del tempo. Passano la giornata senza fare attività alcuna, a parte i pasti e lavarsi i denti con lo spazzolino che gli viene dato in dotazione all'accoglienza. L'unico passatempo è schiacciare le zanzare. Ecco un brusio che diventa rumoroso provenire dalla cella di sinistra. Di nuovo la negra. Questa volta piange e strilla. Allora, dai, esci fuori. Anzi, no, uscite fuori voi, lasciatemi sola. Hai finito? Eh? Ne vuoi assaggiare un altro pochetto, te? Me devi far incazzare. Poi non lo so perché quando mi incazzo mi viene da parlare umano. No, non ci credo. Parla mezzo africano e mezzo romano anche lei. Mi dice che sono 7 anni che è venuta in Italia dalla Nigeria, che ha trovato lavoro come domestica da una signora che l'ha messa in regola, ha riempito il modulo M209 allo sportello unico, ha firmato il contratto di lavoro, ha fatto domanda per prendere il permesso di soggiorno che è arrivato dopo 8 mesi. Siccome dura un anno, è scaduto dopo 4 mesi. Non poteva rinnovarlo perché il reddito della pensione sociale dichiarata è troppo basso. Allora ha avuto un permesso come disoccupata per 6 mesi. Nel frattempo ha riempito ancora il modulo M209 allo sportello unico, ha firmato il contratto di lavoro, ha fatto domanda per il rinnovo che è arrivato dopo 8 mesi. Poi è rimasta incinta mentre lavorava e la signora alla quale prestava servizio l'ha gentilmente licenziata. La maternità non è riconosciuta. Infatti la sorella, che lo sapeva, quando è rimasta incinta è andata ad abortire da una signora che le ha fatto pagare 300 euro ed ha contratto un'infezione grave che non potrà più avere figli. Lei non ha avuto il coraggio di abortire. Ha preso la disoccupazione per altri 6 mesi e poi tutto finito. Suo marito raccoglie i pomodori in campagna, ma i soldi sono sempre pochi. E la bambina adesso ha 3 anni. Lei ha trovato lavoro come lavapiatti, aiuto cucina in un ristorante, sempre senza contratto, per 20 euro al giorno. Niente permesso di soggiorno. Si è ferita il dito mentre lavorava, corre al pronto soccorso per medicare la ferita, chiamano la polizia e la portano qui. 2 mesi che non vede la sua bambina. Non vuole dargli l'indirizzo dove si trovano sua figlia e suo marito. Ha paura che vengano sbattuti chissà dove. Non ha avuto neanche il tempo di salutarli. Dice di essere molto preoccupata perché ha iniziato a fare le treccine a sua figlia, che non ha finito e che ora le ha solo a metà testa. Ora come finisce l'altra metà? Tutti i giorni chiede di parlare con qualcuno, ma nessuno che risponde. Non sa perché l'hanno portata qui. Non ha rubato, non ha ammazzato nessuno. Ha solo lavato i piatti da 7 anni. E dice che se l'avesse saputo, che piuttosto si sarebbe tagliata il dito invece di andare all'ospedale. Piange. Mi afferra la mano e me la stringe. La sua mano non è tutta nera. Dentro è bianca. Cerco di toccare solo la parte interna. Se non altro per sventare il rischio di qualche malattia. Potrei prendere ameba, diarrea, ascessi profondi e stati settici, malaria, febbre, cefalea, anemia, alterazioni del fegato e della milza, prurito, alterazioni cerebrali, insufficienza renale. giardiasi, diarrea, ittero, malassorbimento alimentare, isopsoriasi, diarrea, febbre, dolori addominali, crittosporidiosi, diarrea, febbre, dolori addominali, ascaridiasi, dolori addominali, vomito, stipsi, asma, allergia, colera, diarrea gravi, crampi addominali e muscolari, disidratazione mortale, tifo, diarrea, febbre, dolori addominali, peritonite, larva migrans cutanea, lesioni cutanee, prurito, alterazioni intestinali, dranunculosi, lesioni cutanee, ulcere al volto, tronco, mani, schistosomiasi, cistite ematuria, lesioni vescicali, lesioni genitali, dolori addominali, nausea, diarrea, lesioni epatiche. Mi stringe ancora più forte. È calda. Una lacrima le cade sul polso. È trasparente e limpida come la mia. Pensavo fosse almeno un po' più scura. Anche a me ne cade una. Proprio al centro della testa del ragno che mami ha tatuato sul polso. Si fondono. Cazzo, non doveva farlo! Infida lacrima! Ti infilzerò con la mia spada! Le chiedo perché tra tanti animali più carini proprio quell'insettaccio si è tatuata. Quasi arrabbiata mi dice di non offendere lo spirito di Anansi, il dio ragno sacro in Africa. In molte favole africane compare Anansi sotto diverse forme. Di solito è un ragnetto piccolo e brutto che però riesce con la furbizia a cavarsela in tutte le situazioni, a vincere la fame, le intemperie, la morte. Come quella volta che cadde nell'acqua in mezzo ai coccodrilli e con le sue doti d'attore riuscì a convincerli d'essere un loro antenato che aveva smarrito la famiglia. Dopo aver superato molte prove, non solo gli fu creduto, ma riuscì a farsi collocare nella buca dove erano custodite le uova dei piccoli. E dopo averle mangiate tutte, il ragno riuscì a scappare verso la savana incontro ad altre avventure. Anansi, come Skank Anansi, la cantante africana. Ho capito adesso perché si è messa quel nome, per via del ragno. Da sola non ci sarei mai arrivata. Mi chiamo Francesca Di Giorgio. Guardo solo Lady Oscar e leggo solo Pinocchio. Ho 18 anni. Mi piacciono le donne. Ma solo da guardare. Tutte le donne emanano poesia se non si atteggiano mentre aspettano l'autobus e guardano sempre la direzione d'arrivo con lo sguardo fisso nel vuoto, o alle 4 del pomeriggio quando hanno saltato il pranzo e mangiano con voracità l'ultima brioche rimasta sul bancone del bar. Adesso che sono cresciuta è diventato più difficile stare in mezzo ai maschi. Non sono innamorata di nessuno, dicono tutti che sono bella, ma non ci provano come mi rispettano, come se già indossassi la divisa. Tutti sanno che un giorno entrerò nell'arma. Come scorre veloce qua il tempo. Sono già passati 3 mesi al centro identificazione ed espulsione di Ponte Galeria. Dal giorno che ho conosciuto Mami, ogni tanto parliamo. Non è che siamo amiche, io sono sempre una divisa. È che qua dentro il tempo scorre così lento che quando la situazione è tranquilla non ci vedo nulla di male a fare 2 chiacchiere. Che poi mi racconta tante cose che certe non lo so se sono vere. Secondo me lo racconta perché ci prova gusto a farmi ci credere. Mi racconta dei villaggi poveri, dove è nata, della loro cucina, perché io sono una mangiona e quindi lei mi ha raccontato della cucina. In Africa, in questi villaggi, si trova sempre lontana dall'ingresso della casa ed è all'aperto, anche se recintata. Una cuoca africana non si deve mai allontanare quando cucina. Possono buttare del veleno nella pentola. Altra regola, non si deve mai avere fretta. Si mette la pentola su 3 pietre e accendere il fuoco è molto difficile. Se ne strofinano 2 e dalla scintilla che esce si accende un pezzo di cotone e poi si accendono dei piccoli bastoncini di legno che si mettono sotto la pentola. Prima di metterla sul fuoco si mette sulla parte esterna della terra bagnata o della cenere, così è più facile lavarla, perché da noi non ci sono mica... da loro non ci sono mica i detersivi, l'acqua, le cose di cucina si lavano con la terra. La donna si siede su uno sgabello per cucinare e dalle sue movenze si capisce se è una nuova sposa o no. Cucinano anche sempre qualcosa per gli antenati morti, così loro li proteggono dai malefici. Una volta alla settimana si va nella savana o nella foresta a cercare la legna. La mettono sulla testa con delle grandi ceste e la portano a casa. In Africa la cucina è sempre un momento collettivo di donne. Una taglia le cipolle, l'altra la carne e così via. Quando una donna partorisce, per 1 mese non cucinerà. Per farle recuperare le forze le si preparano zuppe di riso o di miglio. Quando nasce il bimbo non ci sono pappe, omogenizzati, latte in polvere come da noi. Il bimbo mangia quello che mangiano i grandi, solo che è la madre che gli mastica il cibo per renderlo commestibile al piccolo. Tra favole, cucina e racconti sono 4 mesi che giro qui dentro. Questa luce comincia a dare fastidio anche a me. Mi sono abituata un po' a tutto, però. anche alla puzza del bagno. Certo, cerco di non passarci proprio vicino, se non quando strettamente necessario. Corri, corri! Che cazzo di sfigo proprio nel bagno! Entro! Non sento più la puzza. Non sento più niente. Ciondola la testa. Mami ha il lenzuolo intorno alla gola. I suoi occhi ora sono enormi e nerissimi, come quando il fumo della pentola invade l'iride. Mi fissano. Nell'iquame della turca galleggia un foglio. Faccio appena in tempo a leggere foglio di via, prima che la melma lo mimetizzi. Dondola, mami. Di qua e di là. Di qua e di là. Ehi, non essere triste. Tu sarai la bambina con le treccine a mezza testa. Adesso ti dico un segreto. Pinocchio è in carcere perché gli hanno rubato le monete d'oro che gli ha regalato Mangiafuoco. La tua mamma è stata portata qui perché si è ferita al dito mentre lavorava. Vedi? Anche nelle favole succedono le cose al contrario. Le negre non mangiano da 3 giorni. Sciopero della fame, che non gliene frega niente a nessuno. La voce del suicidio è arrivata anche al reparto uomini. Anche loro non mangiano. Stato di massima allerta. Tutti al reparto uomini! Un algerino sta dando i numeri! Dice di stare male. Lo isoliamo. Siamo in 5. Io rimango indietro. I colleghi sembrano impazziti. Lui chiede medicine, loro lo picchiano. Uno gli salta sul torace. Piano, quello sta male. Che fate? Fermi! E fa finta il bastardo, no? Se andasse a cura nel paese suo si sta male. E via, giù, botte. Finché non si muove più. Adesso non sta più male. È immobile. Deceduto per arresto cardiocircolatorio, è referto. Sì? Alla stazione di Nettuno? È in fiamme? È straniero? Mando subito una volante, di corsa una volante alla stazione di Nettuno. C'è un immigrato in fiamme. Un passante ha dato l'allarme. Mi chiamo Francesca Di Giorgio. Sono una bambina. Guardo solo Lady Oscar e leggo solo Pinocchio. Marisa, la mia vicina di casa, ha sempre i lividi. È mezzanotte, non riesco a dormire. Il marito urla, rumori forti, crolla la casa. Domani lei zoppicherà. Mamma, papà, che cosa succede da Marisa? Zitta e dormi, non sono fatti tuoi. Marisa è fuggita via, con un tumore, dicono. Da grande indosserò una divisa, così difenderò Marisa, che ci fa anche rima. Dopo una settimana del suicidio, omicidio, suicidio, malore, vengo trasferita al centro identificazione ed espulsione di Lampedusa e al controllo degli sbarchi. Siamo tutti schierati in attesa del mercantile turco carico di immigrati. Un pescatore li ha salvati, il loro barcone li ha abbandonati. Il capitano Asik li ha salvati caricandoli sulla Pinar. 144 disperati. Sono rimasti 5 giorni in mezzo al mare. Malta e l'Italia giocano a ping pong. Malta si assuma le sue responsabilità. Non è colpa nostra se l'Italia non li vuole accogliere. Io non li voglio, è tuo quel pezzo di mare. No, è tuo, prendili tu. I giorni passano. Poco cibo, poca acqua, fa freddo. La vedo, eccola! Si avvicina scortata dalle motovedette della Guardia di Finanza. Tutti sdraiati a terra. Sembra il bancone di Pino, il macellaio. Facce vuote. Puzzano. Vedo un fagotto bianco con un bozzo enorme. Quel bozzo è una pancia. Piange il capitano Asik. Piange Peresa Tekos, la ragazza nigeriana di 18 anni morta in acqua con il bimbo che portava in grembo. È rimasta per 5 giorni come un sacco di rifiuti sul pozzo di poppa del mercantile turco. Non è possibile sapere se si era aggrappata a quella fune. Noi l'abbiamo vista galleggiare a faccia in giù, che appariva e scompariva tra le onde altissime del mare. Quel cadavere che galleggiava era stato avvistato, ma poi l'abbiamo persa. ho fatto un giro di 360 gradi, dicendo a tutto l'equipaggio di cercare quel corpo, di stare molto attenti per vedere dove la portava la corrente. E quando l'abbiamo rivisto, ho fatto calare una scialuppa in mare, nonostante le onde altissime e il vento forte. Il primo tentativo di recuperarla era fallito. Quel cadavere era scivolato dalle mani dei marinai che la seconda volta erano riusciti a issarla sulla scialuppa. A quel punto, via radio, un marinaio mi ha avvertito, dicendomi che era una donna e che era morta. Con lei c'erano anche un fratello e altri due parenti. Quando l'abbiamo trasferita sulla nave, prima di avvolgerla in un sacco di plastica, mi hanno chiesto se potevano vederla per l'ultima volta. Ho detto di sì, chiedendo se sapessero se era morta a bordo del barcone, poi caduta in mare oppure era annegata. Nessuno ha dato un racconto preciso e quando facevano domande mi sembravano degli automi, stanchi, impauriti, sfiniti dal freddo, non riuscivano neanche a parlare. Qualcuno ha detto che quella donna è morta annegata, che non sapeva nuotare. Un altro naufrago, Ibet, nigeriano, ha detto: quando la Pinar si è avvicinata al nostro barcone, molti sono riusciti a salire a bordo grazie alle cime che ci venivano lanciate dai marinai, ed anche Esa Tecos era riuscito ad aggrapparsi ad una fune, che però le era scivolata dalle mani cadendo in mare. Tre di noi si sono buttati in mare per recuperarla, ma le onde erano troppo alte e a un certo punto l'abbiamo vista sparire. I naufraghi lo chiamano Dio, ma in Italia rischia favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E Dio piange, dicendo: non sono riuscito a salvare quella povera ragazza, che era anche incinta. Ehi! Tu, non essere triste. Adesso sei al sicuro nella pancia della balena. È caldo lì dentro, eh? Sarà una nuova vita per te. Troverai dei tesori e del cibo, una candela e dei libri. Così potrai anche studiare. Quando la balena aprirà le fauci lì dentro, sarà come un Luna Park. Ti divertirai un mondo. Poi arriverà la tua fata e ti trasformerai in un bambino vero. Sono seduti per terra. Uno di loro canta. Sembra una litania religiosa. Come fa a cantare? Si chiama Bob. Bob è nigeriano. Mi racconta di suo padre, decapitato con un colpo di macete. La madre gli ha dato $100, i risparmi di una vita, e gli ha detto: vai e salvati. Mi è simpatico, Bob. Ha imparato l'italiano nelle prigioni libiche. Dopo aver attraversato il deserto ed essere arrivato in Libia, l'hanno tenuto prigioniero a lavorare per 3 anni. La sua fidanzata è incinta, è lì con lui. Sono innamorati, si baciano, si stringono. Lui mi dice che amerà il bambino come se fosse suo, perché in realtà è di qualche poliziotto libico, uno tra i tanti che l'ha violentata. Lei si volta come se provasse vergogna, si copre la faccia con le mani, ma lui le prende il viso e con un sorriso a mano, quasi per consolarla, le dice: anch'io sono stato stuprato più volte, con un manico di scopa. Ehi, Bob, povero Bob, $100? Per arrivare nel paese dei balocchi e invece di trovare calore, musiche, danze di benvenuto, sei stato ammassato in una stiva peggio di un mulo da suma. Povero Bob, che delusione dopo aver attraversato il deserto. Ma ora la tua fata ti farà crescere le ali e come gli uccelli migratori sarai libero di andare ogni volta che verrà la primavera. Collega, che facciamo? Agli ordini sono ordini. Il nuovo pacchetto sicurezza farà in modo che ritornino tutti da dove sono partiti. Ho capito, ma da qui entrano solo il 5% degli immigrati. Sì, ma Maroni non gliene frega una minchia degli immigrati che entrano. Questi arrivi fanno parlare, sono clamorosi, respingimenti spot, portano voti. E allora la scopa in culo, ficchiamola. C'è una ronda sotto la metropolitana e una controronda di protesta. Voi, alla ronda delle camicie verdi. Voi, malmenate un po' la controronda dei centri sociali. La signora in camicia verde ha preso ad ombrellate un marocchino. E schieratevi con la signora. Ma non abbiamo ombrelli. E usate il manganello, Cristo! Operativa al centro identificazione ed espulsione di Lampedusa. Per il nuovo incarico sveglia alle 5. Lucida in 7 secondi. Doccia fredda per temperare il corpo e lo spirito. Colazione, una fetta di pane e Nutella. Energia per fare e per pensare. La mangio tutta. A me serve anche pensare. Non cambia molto da quello di Ponte Galeria. La situazione è tesa. I cittadini stanno protestando qui fuori perché non vogliono questo posto. Gridano vergogna. Gli immigrati da qui percepiscono il clima, si scaldano. Il calore della protesta della gente comune oltrepassa i muri di questa galera. Gli immigrati forzano le porte. Il manganello è pronto. Sento il braccio debole. Fuori i cittadini aiutano gli immigrati a fuggire. Dobbiamo fermarli. Sbarro la strada ad una donna. Ha le treccine e gli occhi grandi, nerissimi. Mi fissano. Ha un ragno tatuato sul collo. L'ho riconosciuto, è Anensi, il ragnetto piccolo e brutto che però riesce con la furbizia a cavarsela in tutte le situazioni e a vincere la fame, le intemperie e la morte, come quella volta che era morto di fame e si appiccicò la cera d'api sul sedere con la scusa di farsi prestare un tizzone, riuscì ad avvicinare i corvi e a portarsi via i fichi che gli rimanevano attaccati sul di dietro. Non ce la faccio a fermarla. Il manganello non è più una piuma. Pesa come il piombo. Ricade giù. Ora la mia forza è tutta sulla gamba. Sembra non obbedirmi. Va da sola. Con un calcio spalanco il cancello, sorretto dall'altra parte da due colleghi che finiscono quasi schiacciati dalle grate. Ora la via è libera. Li vedo uscire, corrono, gridano al mondo, si riprendono la loro dignità di uomini. Sono veramente fiera di indossare questa divisa, perché so di aver fatto un atto di giustizia sociale. Non è dello stesso avviso il superiore, che dalla registrazione delle telecamere e dalla testimonianza dei colleghi scopre il mio gesto. Soldati della guardia, è necessario che io vi parli. Come sapete, il nostro reggimento domani sarà a Parigi. L'ordine che abbiamo ricevuto è di collaborare con le altre truppe e soffocare la rivolta armata con qualunque mezzo. Questo vuol dire sparare sulla folla. Probabilmente ci saranno i vostri amici, i vostri parenti tra la folla. Se vi dessi l'ordine di aprire il fuoco, sono certa che alcuni di voi non lo farebbero. E io questo lo capisco. Vi parlerò con molta franchezza. Vi dirò quello che farò io, ma è una scelta personale. Ho deciso di rinunciare all'uniforme e di non essere più il vostro comandante. Ecco, vedete, credo che possiate benissimo restare il nostro comandante. Prima che arrivaste abbiamo discusso a lungo. E abbiamo deciso che se qualcuno ci darà l'ordine di sparare, noi lasceremo i soldati della guardia e ci uniremo al popolo. E dato che lo farete anche voi, possiamo restare insieme. Sì, voi continuerete a comandarci e ci batteremo a fianco del popolo. Sono certo che molti altri soldati si uniranno a noi. Tu cosa ne dici? Dico che va bene. Alena ha ragione, Oscar. Agli ordini, comandante. Agli ordini. Ora vorrei che mi diceste qual è il vostro grado e il vostro titolo. Il mio nome è Oscar François. Ora io non ho più né grado né titolo. Vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando. Ordinate ai vostri uomini di ritirarsi, principe di Lambese, altrimenti ordino di aprire il fuoco. Voi siete un nobile, come potete? Io ho deciso di rinunciare al mio titolo e di combattere insieme al popolo per la libertà. La vida che vendrà, de pie marchar, que el pueblo va a triunfar, será. La vida que vendrá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. ¡Abatiamo la vida! Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Dicevo che il popolo deve fare affidamento sulla propria forza. Ma quando è oppresso, quando può contare soltanto più su se stesso, sarebbe un vile chi non gli dicesse di sollevarsi. Proprio quando tutte le leggi sono violate, quando il dispotismo tocca l'apice, quando la buona fede e il pudore vengono calpestati, il popolo deve insorgere. Unito, Il tribunale militare, che opera sempre, anche in tempi di pace, mi ha messo sotto processo per alto tradimento. Mio padre, ufficiale dell'esercito, cattolico e di destra, è a tutte le udienze. Non mi guarda più in faccia, parla solo con gli avvocati. La sentenza. Il tribunale militare di Roma riconosce Francesca Di Giorgio seminferma di mente al momento dei reati contestati per shock post-traumatico. Non ho commesso nessun reato e non sono pazza. Ho giurato sulla Costituzione. Sono stata fedele al giuramento che ho pronunciato. Lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, e quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino. Qualora il governo violi la libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza, sotto ogni forma, è il più sacro dei diritti e il più imperioso dei doveri. Mia madre viene a trovarmi una volta al mese per portarmi le divise pulite e le puntate di Lady Oscar. Mio padre non l'ho più visto. Papà, non essere adirato con me. Tu lo sai che non sono pazza. Annebbiata, sì, a volte, forse spesso per gli psicofarmaci che mi somministrano ogni giorno. Passo, papà. Ho obbedito agli ordini di una divisa con più stelle della mia. Le stelle, papà. Ti ricordi la notte di San Lorenzo, quando le guardavamo insieme per ore e quella volta che ne vedemmo una sfilacciare il cielo, tu mi dicesti: Francesca, quella è la tua divisa. Passo, papà. Ho usato il manganello in faccia a uomini che dormivano nelle tende per difendere la loro terra da una talpa elettrica che a 300 all'ora voleva mangiarsi la storia della loro valle. La valle piena di fiori. I fiori, papà, come quelle rose bianche che mi regalasti al giuramento. Li ho visti quel giorno i tuoi occhi opachi, papà, per la prima volta a specchiarsi nei miei. Passo, papà. Ho lanciato gas lacrimogeni, inquinando i polmoni e l'ardore degli studenti in lotta a difendere il diritto allo studio dei figli che ancora non hanno e che quando arriveranno non troveranno più la scuola. Ho obbedito agli ordini, papà. Ho caricato la rabbia degli operai in piazza con i figli da sfamare a casa, figli violentati dalla televisione armata di tronisti, figli pronti a mettersi in fila per il Grande Fratello mentre i padroni distribuiscono pani e pesci e i fratelli, quelli piccoli e deboli, muoiono ingoiando sale. Il sale, papà, quello del nostro mare, il mare delle creme solari, dei bikini Dolce Gabbana, dell'aperitivo Happy Hour a 10 euro. Passo, papà. Non odiarmi se non ho onorato le stelle della tua divisa. Le stelle, papà, non sono pazza. Ho solo sentito tanto caldo un giorno, un caldo che bruciava, come la stella che frastagliava il cielo quella notte, papà. La stella di Betlemme, quella di Cristo, del Cristo della domenica in chiesa con la gonna, e di quel povero Cristo che attraversò il deserto per finire ammazzato dalle stelle di una divisa che gli saltavano sul costato. Ma non era Cristo, papà. Non è resuscitato dopo 3 giorni, è morto. Morto e basta. Esat, che mangiò la sabbia del deserto con un figlio in grembo e beve l'acqua del mare fino a morire. Passo, papà, che bruciano le stelle. E non odiarmi se un giorno le scintille sono esplose e la mia divisa è scoppiata, esplosa e ha frastagliato il cielo come quella notte. Ti ricordi, papà? Passo, papà. Passo e chiudo.